le ascolto ed infine io le dico di sì. Lei era tanto bella, basta essere bella. Parole piene di sensi con la semplicità. Volevi dimostrare la tua ingenuità. Perdevi la morale dei tuoi mille perché. Sognavi ad occhi aperti tuoi diversi letti. Solo parole, non so.